61. Zuppa di lenticchie. Se Esaù vendette la primogenitura per un piatto di lenticchie, bisogna dire che il loro uso come alimento è antichissimo e che egli o era ghiotto all'eccesso o soffriva di bulimia. A me sembra che il sapore delle lenticchie sia più delicato di quello dei fagioli in genere e che quando a minaccia di bombardite esse siano meno pericolose dei fagioli comuni ed eguali a quelli dall'occhio. Questa zuppa potete farla nella stessa guisa della zuppa di fagioli, però la broda delle lenticchie e dei fagioli dall'occhio si presta bene anche per una minestra di riso che si prepara e si condisce nello stesso modo. Soltanto bisogna tenere la broda più sciolta perché il riso ne tira molta. Per regolarvi meglio circa la densità, aspettate che il riso sia cotto per aggiungere nella broda la quantità che occorre di lenticchie passate. 62. Zuppa di magro con le telline. Regolatevi come per il risotto con le telline numero 72. Due spicchi d'aglio e un quarto di una cipolla potranno bastare se trattasi di una quantità sufficiente a 7 o 8 persone e senza bisogno di ricorrere a burro e parmigiano, sentirete una zuppa eccellente se saprete tirar bene il soffritto. Il pane arrostitelo a fette che taglierete a dadi. Anche qui ci sta bene qualche pezzetto di funghi secchi.